Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo ancora in una fase in cui non possiamo vedere immediatamente i benefici, ci vorrà ancora qualche giorno, ma soprattutto è una fase in cui non dobbiamo mollare. Non abbiamo le condizioni, non ci sono i presupposti per mollare. Dobbiamo mantenere queste misure se vogliamo verificare degli effetti e se vogliamo veramente, e questo è il secondo messaggio, fare in modo di proteggere le nostre persone più fragili. Speriamo che il messaggio sia chiaro, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che siete a casa ad ascoltare Effetto Notte, tranne poche eccezioni di chi magari è in viaggio per lavoro. Lo ha detto ancora una volta, lo ha ribadito il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, che la tendenza è quella giusta, la strada è quella giusta del contenimento, delle misure restrittive. I contagi continuano comunque a essere alti, è vero che ci sono tanti guariti, però ci sono lo stesso sempre tanti morti, quindi bisogna rispettare le regole del decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo scorso, però per colpa di molti che ancora non hanno capito la gravità della situazione si rischia di andare verso misure più restrittive. Oggi per esempio il Ministro dello Sport Spadafora ha paventato che si possa anche far correre più nessuno nei parchi. Questa sarebbe una cosa gravissima anche per me personalmente, per esempio. E poi sulle misure restrittive, sulle regole che vanno rispettate, bisognerà fare un bel ripasso e tornerà qui a Effetto Notte il dottor Laquaniti, responsabile, presidente dell'Associazione dei Funzionari di Polizia, che ci farà ripassare bene bene tutte queste regole fondamentali, il decalogo delle regole da rispettare in tutta Italia. Poi ci occuperemo anche di una sperimentazione che si sta facendo a Bologna, l'ASL di Bologna, di tamponi fatti direttamente, come in Australia e come in Corea del Sud, in automobile alle persone che passano, che può essere insomma un modo anche questo per ottimizzare i tempi e le risorse. Poi diverse altre naturalmente cose importanti, come sempre importantissime qui a Effetto Notte, per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349 238 6666. Siete comodi in poltrona, sul divano, su una sedia, oppure state facendo ginnastica, ascoltate Effetto Notte che va benissimo in casa, qualsiasi cosa state facendo, se volete la potete anche comunicare. Vi ricordo c'è il Twitter, Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano, durante il giorno se volete alcune anticipazioni. Andiamo con la sintesi della giornata. Il monito dell'OMS, ci sono oltre 200.000 contagi e oltre 8.000 morti per il coronavirus nel mondo. Preparatevi come se doveste essere infettati, non date per scontato che non lo sarete. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, inoltre, medici e infermieri italiani stanno facendo miracoli. Il coronavirus in Italia, oltre 4.000 le persone guarite nel nostro paese, 1.000 in più di ieri. I contagiati sono 2.648 in più di ieri, in tutto 28.710. Le misure per il contenimento del virus, si va verso il divieto dello sport all'aperto. Il presidente della regione Lombardia Fontana dice: state a casa, se non lo capite con le buone saremo più aggressivi. La reazione dei mercati, panico a Wall Street, Trump annuncia l'arrivo di una nave ospedale a New York. Anche la Gran Bretagna chiude tutte le scuole, la Spagna verso la chiusura di tutti gli alberghi. Indonesia, terremoto di magnitudo 6.3 al largo delle coste indonesiane. Calcio, ripartire il 3 maggio e possibilità di giocare fino a luglio, così dice il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, oggi ospite di Radio 24. Partiamo quindi dai dati sulla pandemia di coronavirus, che ha raggiunto nel mondo 200.000 contagi e 8.000 vittime, con più decessi in Europa che in Asia per la prima volta. Una minaccia senza precedenti che, secondo l'ONU, può bruciare 25 milioni di posti di lavoro a livello globale e può portare a conseguenze catastrofiche nelle zone più fragili del pianeta, come l'Africa, a cui l'OMS ha chiesto di svegliarsi, e un'importante ONG ha detto che in Africa appunto si può rischiare le catastrofi. Tombe. Preparatevi, dice l'OMS, come se doveste essere infettati, non date per scontato che non lo sarete. Poi ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che medici e infermieri italiani stanno facendo davvero miracoli. Al momento l'Europa è il grande malato, l'Unione ha blindato i confini esterni, centinaia di milioni di persone vivono in parziale o totale lockdown, come si dice, quindi blindati per fermare questa escalation di contagi. Il Belgio è l'ultimo paese, dopo l'Italia, Francia e Spagna, ad aver chiuso quasi tutto per limitare i contatti. L'Italia dunque che sta facendo la sua parte per tamponare l'emergenza, emergenza comunque che resta nella sua gravità. Nel pomeriggio c'è stato il consueto aggiornamento della Protezione Civile. Si mantiene stabile il trend di crescita dei contagi da coronavirus in Italia. A farlo sapere è la Protezione Civile. I nuovi casi sono 2.648 e portano il totale dei malati a 28.710. 475 sono invece le nuove vittime, che nel complesso salgono a 2.978, ma si registrano anche 1.084 nuove guarigioni, 4.025 dall'inizio dell'epidemia, un numero veramente importante. Commenta il commissario Borrelli. Rispetto alla Lombardia, nel centro-sud l'aumento dei casi non è così veloce, ha spiegato invece il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Nelle altre aree del paese c'è una crescita, ma non è così veloce. È però questo un elemento importante da prendere in considerazione, perché non deve illuderci, perché soltanto, ribadisco, se tutti ci comportiamo in determinato modo, solo questa è la vera misura che ci può aiutare a rallentare la diffusione della curva epidemica. Il Viminale intanto ha fatto sapere che in una settimana sono state controllate oltre 1 milione di persone, 43.000 delle quali sono state denunciate perché trovate fuori casa senza un valido motivo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per l'appunto poi ne parleremo, vi dicevo, con il rappresentante dei funzionari di polizia. Questi numeri generali, comunque, come sappiamo, però la Lombardia a pagare il prezzo più alto sia a livello di contagi che di morti. Il presidente della regione Fontana ha detto: state in casa, presto non saremo più in grado di aiutare i malati. Sentiamo questo passaggio al TG1. Purtroppo troppa gente ancora si muove, troppa gente pensa che queste regole siano uno scherzo, credono che ormai tutto sia finito, invece siamo nel pieno di questa epidemia. E sentiamo anche sempre per la Regione Lombardia, l'assessore Gallera. I numeri sono quelli di una continua battaglia, i numeri crescono, oggi crescono quasi tutti in maniera inferiore rispetto a ieri. Quindi lo avete sentito della necessità di restare chiusi in casa il più possibile, l'appello arriva da tutti, da politici, da personale medico, si va dunque verso una possibile nuova stretta, speriamo di no, di questo comunque parleremo, vi dicevo appunto, con il portavoce dei funzionari di polizia. Intanto si chiariscono i termini dei provvedimenti contenuti nel decreto Cura Italia. Un nuovo vertice a Palazzo Chigi, convocato dal Premier Giuseppe Conte per attuare le misure del decreto Cura Italia, ma non solo. Allo studio la proposta del ministro dello sport Vincenzo Spadafora sul possibile blocco delle attività all'aperto. Così Spadafora al TG1. Anche la comunità medico-scientifica ci diceva di dare comunque la possibilità a molte persone di poter correre anche per altre patologie sanitarie, però l'appello generale era restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato, saremo costretti anche a porre un divieto assoluto. Nel frattempo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri spiega che ad aprile il governo utilizzerà i fondi strutturali europei. Si è deciso a Bruxelles, avremo diversi miliardi per prorogare alcune misure. Gualtieri è ottimista, potremmo essere i primi ad uscire da questa epidemia. Ma dall'opposizione il leader della Lega Matteo Salvini avverte, dal mondo produttivo ci dicono che il decreto così non basta, se non migliora ora non lo votiamo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In aiuto di negozi e botteghe rimasti chiusi per l'emergenza coronavirus, il decreto Cura Italia prevede uno sconto per l'affitto attivato grazie a un credito d'imposta al 60% sulle spese sostenute a marzo. In arrivo anche un premio di 100 euro nella busta paga di marzo per quasi 9 milioni di lavoratori con reddito sotto i 40.000 euro e costretti a uscire di casa per andare al lavoro. Con la pubblicazione del decreto diventa poi operativa la cassa integrazione in deroga per tutte le imprese, incluse quelle normalmente escluse dall'uso degli ammortizzatori sociali. E per i lavoratori autonomi in arrivo un bonus di 600 euro che, spiega il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, non sono un una tantum per marzo, poi ci sarà un intervento ad aprile ma commisurato alle esigenze delle persone. Ora, spiega Gualtieri, vista la necessità di agire velocemente, questo non è stato possibile. Alle famiglie con i figli a casa il decreto consente di usufruire di congedi speciali al 50% della retribuzione e bonus babysitter fino a 600 euro. E per avere il bonus, il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, consiglia di utilizzare il sito dell'istituto, operativo entro 2 settimane. Ma per attuare tutte le misure previste dal decreto in tempi rapidi, puntualizza il ministro Gualtieri, c'è stato un vertice a Palazzo Chigi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Notizia di questo pomeriggio: il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza relativa all'istituzione della zona rossa per 6 comuni abruzzesi, dai quali quindi non si può né uscire né entrare, 5 in provincia di Teramo, che sono Castelmesser Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti, e uno in quella di Pescara, che è Elice. L'emergenza coronavirus, ovviamente, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, può portare a tragedie, nelle tragedie, per esempio per quanto riguarda le donne maltrattate, che sono ancora più, diciamo, in situazione ristretta e a rischio, con appunto le misure di contenimento per le quali bisogna stare in casa. Allora, la ministra Bonetti fa sapere, e è così la rete nazionale Dire per le donne, che i centri antiviolenza in queste ore hanno lanciato l'allarme nei giorni scorsi, e la ministra Bonetti del Dipartimento Pari Opportunità ha rilanciato la campagna per far sapere alle donne che il numero 1522 è sempre attivo per le donne che chiedono aiuto e che i centri e le case rifugio restano aperti. Parliamo della reazione dei mercati: chiusura negativa Piazza Affari, e però è panico anche per Wall Street. Vediamo, poco fa la chiusura chiude in calo, il Dow Jones meno 6,28%, il Nasdaq 4,70%. Questo è, vediamo, eccolo qua, Wall Street chiude in forte calo, il Dow Jones perde il 6,28%, se il Nasdaq cede il 4,70%. E appunto la borsa. Un'altra giornata di record, nessuno positivo. I maxi interventi di governi e banche centrali per fronteggiare la violenza dell'impatto economico del coronavirus non convincono i mercati, che in Europa archiviano un'altra seduta da dimenticare. I cali finali per Parigi, Francoforte e Londra toccano fra il 5 e il 6%. Nel Regno Unito la sterlina scivola ai minimi dall'85, al punto da obbligare ad un intervento rassicurante la Banca d'Inghilterra. Il petrolio continua una discesa dirompente, portandosi su valori che non si vedevano da almeno 18 anni, a $23 al barile. Pesano il crollo della domanda globale, il blocco mondiale dei trasporti, la guerra dei prezzi fra i paesi produttori. Milano limita il calo a meno 1,17%, una resistenza dovuta all'intervento stabilito da Consob di vietare per 3 mesi le vendite allo scoperto su tutte le società. La misura limita l'impatto della volatilità a Piazza Affari, ma non quello dello spread, che ritocca livelli che non si vedevano da almeno 2 anni, 330 punti, per chiudere a 271 per l'intervento di Banca Italia nell'ambito del piano d'azione concertato con la Banca Centrale Europea. Fra le azioni, le vendite si sono abbattute sul settore automobilistico e quello industriale. Si salvano utilities e telecomunicazioni. I servizi sono al momento gli unici settori che fronteggiano con forza il Covid-19 in borsa. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E preoccupa l'aumento dei casi anche in Europa, dove molti paesi, sull'esempio dell'Italia, stanno prendendo misure importanti. Quasi 200.000 i casi di coronavirus nel mondo, secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. I decessi in Europa, 3.400, hanno superato di un centinaio quelli in Asia, comunica l'agenzia France Presse. Chiuse le scuole in Scozia e Galles, il lockdown dovrebbe arrivare presto anche a Londra, che sarà sottoposta a misure di tipo italiano, con Boris Johnson che ha nel frattempo disposto 25.000 tamponi. Chiusi a partire dal 24 marzo tutti gli hotel in Spagna, dove ormai sono quasi 14.000 casi e dove il momento più duro deve ancora venire, ha avvertito il premier spagnolo Sanchez, che sta per parlare alla nazione. Anche in Germania è attesa per il discorso di Angela Merkel, la quale, è stato anticipato, non annuncerà ulteriori misure restrittive. Intanto, con Portogallo e Spagna, sale a 12 il numero di paesi dell'area Schengen che hanno notificato a Bruxelles la decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere. E mentre il presidente brasiliano Bolsonaro spiega i molti morti in Italia affermando che il nostro è un paese di vecchietti, a Cuba si è registrata la prima vittima di coronavirus. È un italiano di 61 anni, già affetto da problemi di asma. Quanto all'Africa, deve prepararsi al peggio, ha avvertito il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, esortando tutti i paesi africani a cancellare immediatamente gli assembramenti. La luce in fondo al tunnel arriva dalla Cina, che ieri ha avuto in tutto 13 nuovi casi, uno solo a Wuhan, 155 invece i casi di ritorno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentivate appunto di Bolsonaro, presidente brasiliano, grande amico di Trump, che ha detto l'Italia è una città, cioè un paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti. Sentiamo Bolsonaro. Agora Italia è una città, è un paese parecido com o bairro di Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então são muito mais sensíveis. Morre mais gente. Per esempio, c'è la seconda morte agora. Grande statista, insomma, Bolsonaro. Sono almeno 80.000. Intanto l'Arabia Saudita chiede di riunire un G20 virtuale straordinario sul coronavirus, mentre pensate, per esempio, vedo adesso un'agenzia che riguarda il Bangladesh, in 10.000 in Bangladesh si radunano per pregare. E sono almeno 80.000 i cittadini europei rimasti bloccati fuori dall'Unione che vorrebbero tornare a casa, lo stima la Commissione europea, tra loro migliaia di italiani. È sempre più una crisi nella crisi, quella delle migliaia di italiani bloccati all'estero dopo la chiusura a domino delle frontiere, soprattutto all'interno dell'Europa, coi confini terrestri e i cieli ormai sigillati dall'emergenza coronavirus. Il ministro degli esteri Di Maio ha ribadito che proseguono i voli speciali sia di Alitalia sia anche di compagnie private per riportare a casa i nostri connazionali. Primo fronte di emergenza la Spagna, il secondo paese più colpito in Europa dalla pandemia. Sono stati programmati voli speciali da Madrid, Malaga e dalle Canarie. Alitalia aumenterà le connessioni con Londra per riportare a casa i nostri connazionali oltremanica e inserirà nuovi voli dalla Romania. Questo perché la priorità di rimpatrio, fa sapere la Farnesina, sono gli studenti e gli espatriati temporanei. Sentiamo Di Maio alla 7. Noi non vogliamo e non lasceremo nessuno da solo. L'unico problema sono i tempi. Stiamo facendo tutto il più velocemente possibile. Il sito di Alitalia riporta tutti i voli speciali di rientro già acquistabili online, che includono rotte anche da Tunisia e Algeria. Meno problemi dovrebbero esserci, secondo quanto riferito a Radio 24 dagli operatori di settore, per i turisti in vacanza all'estero con i tour operator. E per tutti coloro che rientrano, l'indicazione del ministro Di Maio è chiara: occorre mettersi in autoquarantena rimanendo in casa isolati dal resto della famiglia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di italiani all'estero per vari motivi, vedo adesso che un gruppo di ragazzi italiani che avevano seguito un corso per assistenti di volo Ryanair a Bergamo si trova bloccato in questo momento a Dublino dopo che 15 di loro su 17 sono risultati positivi al coronavirus. Ora si trovano in isolamento in una struttura messa a disposizione dalle autorità irlandesi, in quarantena fino al 26 marzo. Per quanto riguarda le mascherine, mancano mascherine, come sappiamo, negli ospedali e nei luoghi di lavoro. Dopo il decreto Cura Italia, che stanzia incentivi per 50 milioni, le imprese del settore tessile e la protezione civile sono al lavoro per un accordo che velocizzi la produzione made in Italy. E proprio ieri, con Effetto Notte, è stato ospite l'avvocato Giancarlo Pisacane, che è il titolare di uno studio legale tributario che lavora tra l'Italia e Shanghai e si era fatto promotore di questo ponte di solidarietà con Bergamo e con l'Italia, di approvvigionamento di attrezzature tra cui mascherine e respiratori. Bene, oggi l'avvocato ci ha contattati per annunciarci che sono arrivate le prime mascherine a Bergamo, ma se ne attendono altre per domani. In tutto arriveranno oltre 20.000 mascherine, una buona notizia. Mentre un'altra invece per nulla buona dall'estero: una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata oggi al largo delle coste indonesiane, lo rende noto l'Istituto Geografico Americano. E poi siamo allo sport: tornare a giocare il prima possibile per portare a termine il campionato anche in luglio se necessario e chiedere ai giocatori la disponibilità a tagliarsi gli ingaggi per fare fronte alla crisi. Questo è il piano del nostro calcio per far fronte all'emergenza. C'è stato Gravina, presidente della FIGC, oggi a Radio 24, poi ne parleremo più tardi. Per chiudere, un po' di musica. Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Questo è Bono Vox, che ha dedicato questa canzone agli italiani. And no one was near. Si intitola Let Your Love Be Known. Yes, I don't know you. Fa qualche stonatura perché lì in casa che suona la chitarra, Pietro La Corte, regia, dice di sì, sì, effettivamente si sente, però apprezziamo moltissimo la dedica, la volontà, l'amore anche per il nostro paese. L'ha ringraziato anche il ministro Luigi Di Maio degli Esteri su Twitter. Bene, con questo direi che vi ho raccontato tantissimo già in questa prima parte, ma adesso dobbiamo cominciare a approfondire alcuni temi con gli ospiti tra pochissimo. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui subito da voi, Roberta Giordano. 60 minuti pieni come sempre di aggiornamenti in diretta, sintesi della giornata, approfondimenti con gli ospiti e anche i vostri commenti, le vostre riflessioni e anche le vostre domande al 349 238 6666. Per esempio, C'è Manolito che scrive: da oggi ore 16 a Fossano, provincia di Cuneo, divieto di praticare attività motorie all'aria aperta. Il sindaco ha chiuso, scrive, tutte le vie di accesso alla campagna, vietato accedervi in bici o a piedi. Purtroppo, dice, forse ci salveremo dal Covid-19, ma di sicuro tutti gli sportivi avranno bisogno di cure mentali per lo stress da derivazione, direi deprivazione della libertà. Io stessa mi metto in questo gruppo, naturalmente, perché purtroppo pare, insomma, che viste le cose che stanno succedendo, dei molti che non rispettano le regole, insomma, si potrebbe andare verso misure più stringenti. Questo in base, ovviamente, prima di tutto al bollettino relativo all'epidemia di coronavirus in Italia, lo avete sentito come sempre nella prima parte di Effetto Note, e in base appunto ai dati che arrivano giorno per giorno, ma anche, dicevo, per la colpa di troppe persone che ancora non hanno capito la gravità della situazione e mettono in atto dei comportamenti in violazione delle regole stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo scorso, di cui abbiamo parlato ampiamente con Effetto Note, mettendo quindi a rischio se stessi e gli altri, ma anche la sostenibilità delle strutture sanitarie. Allora, il Ministero dell'Interno ha varato una nuova direttiva che impone intanto una stretta nei controlli per evitare che dei cittadini escano senza avere un comprovato motivo. E il fatto è che i continui spostamenti registrati in queste ore, dimostrati da un alto numero di numeri e di multe, potrebbero convincere il governo a emettere nuove restrizioni. Pensate, si parla di 43.000 persone denunciate in questa settimana, tanto che oggi, vi dicevo, il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Spadafora, ha detto: nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di un divieto completo anche all'attività all'aperto, cosa che temo moltissimo anch'io, perché sono una grande sportiva, ma almeno mi sto riducendo a non far nulla, giusto così la mia corsa al parco, che è a 4 minuti da casa. E dice: quando abbiamo lasciato questa opportunità di farlo, lo abbiamo fatto perché la comunità medico-scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di correre anche per altre patologie sanitarie, ma l'appello generale, ha detto Spadafora, era quello di restare a casa. Se non viene ascoltato, saremo costretti a porre un divieto assoluto, mi raccomando. Però è quindi il caso di fare un bel ripasso delle regole fondamentali che sono da rispettare in tutta Italia, un ripasso per il quale è quanto mai indispensabile il ritorno qui a Effetto Notte del dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Buonasera, bentornato dottor Laquaniti, grazie per la disponibilità. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori e grazie. Quindi partiamo giusto dal più sintetico, intanto, decalogo indispensabile, dottor Laquaniti? Ma il decalogo indispensabile in realtà è una semplice frase: bisogna stare a casa, appunto. Questo è il concetto che il legislatore ha voluto evidenziare nella DCPM che è in vigore in questo momento. Sono state previste delle finestre. Che cosa ha voluto fare il legislatore? Prevedere una serie di possibilità per consentirci, nei limiti del possibile, di vivere una vita quanto più normale possibile, tenendo conto dell'emergenza. E quindi ha previsto tre fattispecie fondamentali che davano la possibilità e che danno la possibilità di uscire di casa: il lavoro, la salute e il cosiddetto stato di necessità. Quindi possiamo andare a lavorare, possiamo andare per motivi di salute dal nostro medico, così come in farmacia o in parafarmacia, e poi c'è questa voce un po' più ampia, quello dello stato di necessità, cioè svolgere quelle attività comunque necessarie per una vita quanto più normale possibile. Il problema, come diceva giustamente lei, è l'abuso di certe possibilità. Il problema è che si ha l'impressione che quando il legislatore ha detto potete fare questo, improvvisamente a tutti è venuta la voglia, è venuta l'idea che quello che è consentito in qualche modo si debba fare. Questo sta costringendo diverse autorità locali a emanare poi ulteriori divieti. Si è andato dalla chiusura di molti parchi recintati, adesso da provvedimenti che impediscono l'accesso in vie pedonali. Faccio un esempio molto banale. Sì. È chiaro che è più bello passeggiare in centro o in un'area verde particolarmente accogliente, però è chiaro che se poi tutti vanno lì, e anche se ci vanno singolarmente, si crea quell'assembramento che il legislatore assolutamente non vuole. Il problema è questo: saper far buon uso delle possibilità che in questo momento ci sono offerte, altrimenti andremo verso misure ancora più draconiane, purtroppo per tutti, anche per chi, non essendo un grande sportivo come me, semplicemente ha bisogno di un minimo di attività fisica, anche solo da un punto di vista fisico, ma anche forse psicologico. Certo, allora, dottor Laquaniti, le faccio alcune domande che arrivano una dopo l'altra. Per esempio, il fare la spesa. Uno dice, ma io quanto posso stare fuori per fare la spesa? Ma in realtà in tutte queste possibilità che il legislatore ha offerto non ci sono dei limiti tassativi, non è scritto che si debba andare a fare la spesa una volta alla settimana anziché tutti i giorni, così non c'è scritto quante volte posso andare a passeggio. Vero è che correttamente molti negozi di alimentari, soprattutto quelli che magari per le dimensioni si possono attrezzare meglio, hanno incominciato a contingentare con grande attenzione gli ingressi e anche all'interno del supermercato sono più attenti a far sì che ognuno mantenga le distanze di sicurezza, perché è spiacevole dirlo, però capita anche questo, ogni tanto c'è qualcuno che non solo è ineducato, compie una violazione nel momento in cui pressa troppo al momento del pagamento alla cassa. Mm. Senta, invece una passeggiata, no? C'è qualcuno che si è lamentato perché è stato controllato mentre andava a fare una passeggiata, è stato chiesto chi è, il numero di telefono, perché è andato fuori, quanto tempo, quanto era distante da casa, quindi anche qui uno dice la passeggiata, cosa devo considerare per una passeggiata normale e allora, legittima? È chiaro che, come posso dire, la nostra attività di controllo serve anche a far comprendere alle persone che escono che l'attività di vigilanza viene fatta da tutte le forze dell'ordine. Noi stiamo studiando anche la situazione per capire qual è veramente la dinamica che si vive nelle diverse città, perché ripeto, non è il problema di uno o due che si spostano magari in un posto più piacevole per fare una passeggiata, il problema è quando ci si sposta in massa e allora incominciare a calcolare in che percentuale abbiamo soggetti che per fare la passeggiata magari prendono addirittura la macchina per arrivare nel posto più bello, per arrivare nel centro cittadino per passeggiare sicuramente in modo piacevole tra i monumenti più belli. Quindi tutta la nostra attività di controllo serve per comprendere se l'attuale assetto normativo va bene o se invece il caso è opportuno suggerire al legislatore che ci chiede contezza dei dati bisogna dare un giro di vite o meno. Portare il cane, anche quella è una cosa abbastanza normale, se uno non fa ovviamente dei chilometri, no? Dottor Laquaniti. Sì, anche questo è vero, il problema sta sempre nell'utilizzo di quello che facciamo. Può sembrare incredibile, ma ogni tanto troviamo gente con l'animale in macchina, dice no, lo voglio portare in quel parco perché quel parco è più bello, perché in quel parco il mio cane si trova meglio, perché c'è un'area riservata ai cani dove mi incontro con altri amici. Ecco, questi sono comportamenti di soggetti che chiaramente non hanno compreso qual è la ratio della norma. Poi un ascoltatore chiede, se voglio trasferirmi alla casa al mare fino a fine periodo di limitazione, posso? Mi pare di no, dottor Laquaniti. Tecnicamente no, tecnicamente da questo punto di vista il decreto che è in vigore parla dell'obbligo di rimanere alla propria residenza o al proprio domicilio laddove non coincidano le due ipotesi, ma questo è chiarissimo, anche perché se no avremmo tantissime persone che magari nel weekend sarebbero pronte a trasferirsi nella casa o in collino al mare a seconda della zona, o in montagna insomma. O in montagna, ripeto, questo è un momento in cui il concetto generale, quello che è necessario per il bene di tutti noi, è quello di rimanere a casa. Qualsiasi sotterfugio è chiaro che, se consentito nelle maglie del decreto, prima o poi ci verrà tolto a danno, lo dico a scanso di equivoci, a danno veramente di tutti. Allora, qualcuno dice, prima stavo seduto sulla panchina fino a qualche giorno fa al parco, così fermo da solo, senza nessuno intorno, adesso invece mi hanno chiesto, se lei non fa attività fisica è meglio che vada a casa. Come posso dire, è il tentativo, io una cosa voglio premettere, una norma come quella attuale non ha precedenti nella nostra storia repubblicana, non abbiamo neanche giurisprudenza, non avendo ovviamente delle sentenze che danno degli indirizzi precisi. Anche sui social network siamo pieni di immagini di sindaci o di assessori che vanno in giro invitando le persone ad andare a casa. Questo perché, al di là di quello che è strettamente previsto dalla norma, si coglie che c'è l'esigenza di far comprendere a tutti che non bisogna abusare delle possibilità che oggi ancora ci vengono date. E andare a trovare un genitore che magari insomma è piuttosto anziano, a qualche chilometro di distanza, magari anche 50 chilometri. Guardi, questa è la cosa più dolorosa, Tecnicamente è no, a meno che il nostro genitore non si trovi in uno stato di necessità. Cosa vuol dire? Che o per ragioni di salute ha bisogno di assistenza, in questo caso avremo una certificazione medica, oppure, visto che gli anziani sono i più esposti al rischio di contagio, il figlio o, posso dire, un parente stretto non porti a lui la spesa. Ma la visita in generale, il fatto, posso dire, comprensibilissimo di avere il desiderio di andare a trovare i propri cari non conviventi, non è strettamente consentito dal decreto. Mm. Andrea dice: strano il discorso di queste ultime ore sullo sport. Allora un fumatore può liberamente recarsi a comprare le sigarette, magari, dice, stando in fila in attesa con altre persone. Mentre se io vado da solo in un percorso non frequentato, quindi seguendo tutti gli accorgimenti, rispettando le regole anticontagio, è una cosa strana, dice, sono contraddizioni. Ma rispondendo ad Andrea, ancora questa cosa non è vietata, se appunto fatta in un parco molto all'aperto, senza persone intorno. Mi sembra che sia una cosa che ha paventato il ministro Spadafora, ma per il momento, per fortuna, se ci mettiamo in testa. Così, però ecco, mi permetto di ricordare una cosa molto importante. Sì. Vige l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza in tutti gli ambienti esterni. Quindi, laddove si abbia la necessità, perché dipendenti da nicotina, di andare dal tabaccaio, comunque quell'area non può essere con persone che si trovano uno a ridosso dall'altra. La distanza, come posso dire, di almeno un metro, e sottolineo almeno, sarebbe meglio il doppio, comunque è un obbligo normativo, e chi gestisce le attività che è consentito tenere aperte ha l'obbligo di indicare ai propri clienti l'osservanza di questa distanza. In nessun luogo noi dobbiamo creare assembramento. Dottor Laquaniti, ancora proprio due domande, poi la lascio al suo lavoro. Molti dicono la bicicletta, la bici da corsa, voglio andarmi a sfogarmi. Lì, anche lì è una questione di chilometraggio, di distanza, di tempo in cui si sta fuori. No, più che altro è che alcuni hanno limitato l'uso della bicicletta, che altrimenti il decreto prevedeva come uno dei mezzi legittimi di spostamento. Uno può decidere di andare al lavoro in macchina, ma forse meglio farebbe andare in bici o a piedi. Il problema, ritorno a dire, è che proprio il fatto di magari svolgere queste attività, e anche quella dei cicloamatori, spesso si è svolta in gruppo anche in questi giorni, ha portato non solo a delle sanzioni, ma a domandarsi se non è necessario imporre nuovi limiti. Quindi vedete, insomma, di avere misura e buon senso nelle cose che si fanno, che fate. Ancora ce ne arrivano tantissime domande, dottor Laquaniti, del resto, ma chiudiamo sulla, magari, ecco, questa, e poi chiudiamo dopo sull'autocertificazione. Daniele che dice: dopo pranzo io e mia moglie per mezz'ora portiamo le nostre figlie minorenni a fare il giro del parco a 100 metri da casa per far prendere un po' d'aria a tutti, approfittiamo anche per portare il cane, si può fare, dice Daniele, o sono troppi tutti insieme o devono stare a distanza? Allora, qui do una risposta un pochino tecnica, con la speranza di essere compreso e di non essere né frainteso né, posso dire, qualcuno tenti di ampliare troppo il concetto. La distanza obbligatoria può venir meno nel momento in cui i soggetti sono conviventi, cioè appartengono allo stesso nucleo familiare. È stato un quesito legittimamente posto, per cui era un'assurdità che marito e moglie, che condividano il talamo, come si suol dire, dovessero uscire per prendere il giornale separati da due metri. Quindi quello che è importante verificare per quanto riguarda la vicinanza o meno è proprio, come posso dire, nello stato di famiglia, in chi condivide lo stesso domicilio. In questo caso non è strettamente obbligatorio. Benissimo, allora proprio abbiamo un minuto, dottor Laquaniti, per chiudere sull'autocertificazione, perché adesso c'è una cosa in più, no? Bisogna dimostrare di non essere in quarantena, e molti si chiedono: ma come facciamo a dimostrare di essere positivi o negativi al tampone se non c'è stato fatto? Come si può, questo, diciamo, allora, incongruenza? Questa sembra una domanda difficile, in realtà è facile. È chiaro che la norma può sanzionare chi ha consapevolezza di essere positivo o di essere sottoposto a quarantena anche fiduciaria. Tradotto, è chiaro che se io non so e oggettivamente non sono consapevole del fatto magari di essere un positivo asintomatico, un soggetto, posso dire, che comunque può potenzialmente contagiare gli altri, non posso essere punito per qualcosa che non so. Viceversa, e purtroppo qualche caso è capitato, se il soggetto è stato messo in quarantena fiduciaria o peggio ancora è già risultato positivo e quindi ha l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio e si sottrae a tale obbligo perché è convinto che comunque anche lui ha bisogno di passeggiare o vuole provvedere a un'esigenza, a parte che per noi poi è molto facile verificare se il soggetto è sottoposto a quarantena e se è già stato controllato dalle autorità sanitarie. In questo caso il rischio della sanzione è altissimo, perché è un articolo che gli studenti di giurisprudenza, come me di qualche tempo fa, studiavano poco, l'abbiamo dovuto rispolverare, l'articolo 452, che è un reato contro la salute pubblica e la pena nel massimo arriva a 12 anni, quindi è proprio un altro scenario. Certo. Grazie dottor Girolamo Laquaniti, grazie del suo lavoro, delle sue spiegazioni, delle sue indicazioni così preziose, quindi ancora un motivo in più, visto che le avete risentite, tutti quanti le abbiamo sentite, di rispettarle. Grazie ancora Laquaniti. Grazie ancora a voi, grazie ai suoi ascoltatori, grazie. E a presto. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte, soprattutto se lo state ascoltando da casa, siete al posto giusto, nel momento giusto, Roberta Giordano con voi, state ascoltando quindi la vostra trasmissione preferita antivirus, perché più l'ascoltate più avete informazioni per evitarlo. Allora, abbiamo parlato molto lungamente con il portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia, che ci ha spiegato in modo veramente puntuale tutte le regole fondamentali da seguire per evitare che ci siano ulteriori misure restrittive su tutto il territorio italiano. Adesso parliamo di uno strumento che è stato fondamentale sin dall'inizio di questa maledetta pandemia, cioè i tamponi, no? I tamponi che servono per capire se una persona è positiva o negativa al coronavirus. All'inizio se ne sono fatti moltissimi in Italia, tanto che poi a un certo punto c'era anche la polemica secondo la quale risultavano più contagiati che in altri paesi in Italia perché si erano fatti fin troppi tamponi, mentre altrove se ne sono fatti molto pochi. Poi è stato chiesto di farli solo alle persone sintomatiche, però in Veneto per esempio, dopo il caso di Voeuganeo, si intende nel Veneto seguire la strada dei tamponi a tappeto, su questo ci sono opinioni diverse. A livello nazionale ora però si sta chiedendo di farli a tutto il personale sanitario, che sapete naturalmente in primissima linea, e anche però uomini e donne delle forze dell'ordine, in particolare quelle che fanno i controlli. E a proposito di tamponi, a Bologna si sta sperimentando un tampone a bordo dell'automobile, si chiama tampone drive-thru e riprende quanto già provato con successo sia in Corea del Sud sia in Australia. Allora coinvolgo subito Paolo Pandolfi, che è direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna. Buonasera dottor Pandolfi. Buonasera a tutti. Quindi fate questo test del tampone direttamente a bordo dell'auto della persona che viene controllata. Come funziona questa cosa? Sì, il tampone allo stesso viene utilizzato, viene poi sviluppato e quindi analizzato nello stesso modo di qualsiasi altro tampone che viene fatto a domicilio o in ospedale. Il vantaggio in questo caso è che noi proponiamo ad alcune persone che hanno certe caratteristiche di poterlo fare direttamente in un punto venendo in auto e quindi farlo senza scendere dall'auto, ma semplicemente passando il finestrino dell'auto e quindi essere poi oggetto del tampone sia a livello della mucosa nasale che quella faringea, quindi della gola. In questo caso quindi la persona non scende, c'è un operatore insieme ad uno suo assistente che provvede a fare il tampone e poi a rimetterlo nella sua boccetta, praticamente, quindi nel suo contenitore, per poi poter essere portato direttamente in laboratorio. Dottor Pandolfi, questo, però sì. Mi perdoni questa immagine che vuole essere un po' sdrammatizzante, un po' allegra, no? Ma avviene come una specie di drive-in, nel senso c'è un punto in cui questo si fa e con l'auto si viene lì direttamente, o voi fermate a campione le persone per strada? No. C'è una pianificazione, sono chiamate alcune persone perché soltanto alcune persone lo possono fare, che hanno delle caratteristiche specifiche, e vengono chiamate, viene fatta una pianificazione, vengono chiamate, quindi poi attraverso un sistema di controllo dell'accesso ogni 5 minuti c'è una macchina che accede in un punto che diciamo, è simile a un drive-in. Noi abbiamo una struttura sanitaria a San Lazzaro che ha delle caratteristiche particolari per cui possibile in una rampa di passaggio delle ambulanze poter fare questo tipo di tampone direttamente alle auto, avendo un altro spazio dove poter mettere tutte le attrezzature degli operatori e quindi poter poi lavorare direttamente in un punto di passaggio dove l'auto appunto poi entra ed esce direttamente. Quindi voi, dottor Pandolfi, individuate delle persone in particolare che potrebbero essere a rischio o che sapete, ho capito bene? Sì, sono in genere sono delle persone innanzitutto senza sintomi, quindi che sono delle persone che potrebbero manifestarli ma in questo momento non hanno, che sono tendenzialmente dei contatti stretti di casi, quindi non sono neanche necessariamente appunto dei casi, anzi, e quindi su queste persone per verificare se poi c'è stato un vero contagio facciamo il tampone. Quindi per risalire, risalite ai contatti di qualcuno che magari è stato positivo. Sì, sì, dietro c'è un'inchiesta epidemiologica che ci permette di individuare dei casi, che siamo sicuri che sono appunto positivi, e dei contatti stretti che dobbiamo valutare se si positivizzano o no. Oltretutto all'interno di questo gruppo non ci sono soltanto queste persone, ma ci sono anche le persone che sono guarite clinicamente, ma che non hanno ancora la dimostrazione della negatività del tampone, quindi alcune persone che sono già guarite vengono testate per verificare la guarigione completa. In questo caso si fa questo tipo di test, che è praticamente una modalità specifica che permette fondamentalmente alle persone di non perdere molto tempo, di avere un importante momento di anche sicurezza da parte degli operatori e della stessa persona, perché una persona sta nella sua macchina e l'operatore non fa tutte quelle manovre a rischio che ci sono quando si fa un tampone alla volta. Ogni volta che noi facciamo un tampone un operatore si deve vestire e svestire, e il momento della svestizione è a rischio per l'operatore, perché è lì che si può essere la contaminazione. E se lei dovesse fare un bilancio a questo punto di questa sperimentazione che state facendo a Bologna, dottor Pandolfi, per chiudere? Beh, è una sperimentazione che funziona molto bene. Noi facciamo moltissimi tamponi, oggi ne abbiamo fatti 70, con un solo equip di operatori, quindi risparmiando dispositivi di protezione individuale, riducendo notevolmente il rischio delle persone e avendo una ottimizzazione del servizio anche per la cittadinanza. Grazie dottor Paolo Pandolfi, ricordo direttore dell'ASL di Bologna. Grazie, buon lavoro. Adesso, grazie. C'è la viabilità adesso, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 che è il numero per SMS e WhatsApp. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, sempre Roberta Giordano ad accompagnarvi in questo racconto che vi faccio ogni sera dalle 21 alle 22 di tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, e poi naturalmente tanti temi in primissimo piano da affrontare con gli ospiti. Prima del prossimo ospite vi riporto il report dell'Istituto Superiore di Sanità, che fa due volte alla settimana. Tra i deceduti per Covid-19 fino adesso le donne in Italia sono meno della metà degli uomini, 601 donne e 1402 uomini, e la loro età, quella delle donne, è più alta rispetto a quella delle donne che muoiono, è più alta rispetto a quella dei maschi, una media di 83,7 rispetto a 79,5. Poi sono 17 i morti finora con un'età inferiore ai 50 anni, di cui 5 avevano meno di 40 anni ed erano tutti di sesso maschile tra i 31 e i 39 anni con gravi patologie preesistenti, sempre secondo il report dell'Istituto Superiore di Sanità. L'indagine epidemiologica indica anche che la trasmissione dell'infezione è avvenuta in Italia per tutti i casi delle persone che sono contagiate in Italia, che sono morte, ad eccezione dei primi tre segnalati dal Lazio. E poi l'età media dei pazienti positivi al virus e deceduti è più alta di oltre 15 anni, di coloro che sono deceduti è più alta di 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno solo contratto l'infezione. Poi ci sono altri dati interessanti, però intanto mi voglio subito collegare, tanto per aprire le porte verso il mondo, almeno in Europa, dato che l'Europa da ieri si è blindata, con la nostra Isabella Buffacchi dalla Germania, il Sole 24 Ore. Cara Isabella. Buonasera a tutti, ciao. Allora Isabella, l'ha tenuto ancora, non mi pare di aver visto aggiornamenti, il discorso alla nazione della cancelliera Merkel? Sì, ha tenuto questo discorso molto solenne, molto seria, ma con il suo stile anche molto pacato, e ci si aspettava, in realtà abbiamo aspettato tutto il giorno che fosse annunciato un lockdown, cioè proprio l'isolamento, la chiusura totale. Come altri paesi, a partire dall'Italia. Infatti, invece no, non è stato così. C'è ancora una possibilità che si sta giocando la Germania, cioè quella di responsabilizzare i cittadini, un po' spaventandoli, ci sono anche qui dei numeri spaventosi, delle cifre, delle statistiche. Sai dirci però un po' dei numeri della Germania in questo momento, Isabella? Allora, abbiamo raggiunto oggi, siamo insomma oltre ai 10.000, secondo l'istituto John Hopkins siamo a 11.300, i morti sono molto bassi, sono 26 almeno ufficialmente, poi appunto si sa che non sappiamo insomma come vengono rilevate queste statistiche, però l'altra statistica importante che sta girando, che fa parte anche dei messaggi un po' rassicuranti, la parte almeno rassicurante del messaggio del governo, è che il sistema sanitario qui è molto preparato, ecco, insistono a dire che è tra i migliori al mondo. Ci sono 500.000 letti in ospedale, di cui 28.000 pronti per la terapia intensiva e 25.000 per dare anche l'ossigeno. Però detto questo, pur avendo questi numeri, e poi oggi è stato detto che ci sono polemiche se i test si fanno o non si fanno, i tamponi qui in Germania, hanno detto che ne possono fare 160.000 alla settimana. Detto questo, però, i numeri, ecco, per Angela Merkel, quando si è rivolta ai suoi cittadini, ha detto insomma non guardate questi numeri, l'unico modo per rallentare il virus e per evitare che ci siano moltissimi morti, perché questo l'hanno detto qui in Germania, ognuno si deve prendere la sua responsabilità di evitare i contatti. E la Merkel ha detto, questo è un paese che stenta ad abbandonare la libertà. Infatti vedevo che c'è un neologismo in moda in Germania ultimamente, si chiama Corona Party fra i giovanissimi, e sembra che molti, appunto, anche lì non abbiano ancora capito, come eravamo noi all'inizio, prima dei decreti, no, che ci hanno costretti alle scuole chiuse, tutto chiuso eccetera, che fanno delle grandi feste, se le scuole sono chiuse vanno nei parchi a festeggiare, se le discoteche locali sono blindati si ripiega nelle abitazioni private o anche in piena notte o all'aria aperta a fare festa. Così leggero. Sì, ma questo devo dire che io vivo qui in Germania e mi sono sorpresa del fatto che non ci fosse comunque un messaggio di allarme, che c'è stato questa sera dalla Merkel, bisogna prendere seriamente questa epidemia. Io ho assistito un po' sbalordita delle conferenze stampa fatte anche recentemente sul coronavirus, con i giornalisti tutti seduti uno in fila all'altro come se niente fosse. Quindi Isabella, per sintetizzare, la cancelliera Merkel ha detto, fra le altre frasi, nel dopoguerra non c'è mai stata una sfida di questa portata, però per il momento si affida alla responsabilità di ognuno senza emettere delle misure particolarmente restrittive, no? Per chiudere, Isabella, questo è il fine. Sì, succo. Sì, certo. Non c'è ancora il coprifuoco, però è stato anche detto, la Merkel ha detto, preparatevi, dovrete fare tutto quello che noi vi diremo di fare, ascoltate le fonti ufficiali, non state dietro a dicerie, a voci, sentite fake news, solo noi, eccetera. E infatti quando noi vi diremo di fare qualcosa lo dovrete fare. Quindi secondo me ha anche preparato un po' i suoi cittadini magari al peggio, al coprifuoco che avverrà magari tra un pochino. Grazie Isabella Buffacchi dalla Germania, da Berlino, grazie Isabella, ciao, un abbraccio. E ci torniamo a collegare come negli altri giorni con il nostro Riccardo Barlam da New York. Riccardo, abbiamo detto, abbiamo seguito l'evoluzione mentale di Trump man mano che adesso si sta accorgendo che insomma la cosa è grave, che la questione va tenuta sotto controllo. Quali sono le novità di oggi, Riccardo? In Italia oggi che c'è stato un incontro, sembra brutto parlare di affari, di soldi, perché ho sentito parlare di morti e leggo quello che succede in Italia e sono molto colpito e affranto e partecipe con tutti quelli che sono in prima linea e con tutte le persone colpite, questo come premessa, ma oggi c'è stato un incontro della Business Roundtable, diciamo i grandi manager americani hanno visto Trump e all'uscita di questo incontro uno gli ha detto: guarda che se non ti muovi davvero finiamo tutti all'inferno. E la cosa, sempre per stare in tema Wall Street, affari, mercati, oggi praticamente con il crollo di Wall Street di oggi, con gli ultimi dati, e tutti i guadagni dei tre anni di presidenza Trump sono azzerati, quindi si riparte da capo, come dire, in questo senso, e diciamo Trump rischia davvero la rielezione se non riesce a seguire bene l'evolversi troppo rapido che sta avvenendo qui negli Stati Uniti della crisi, e Biden al momento sembra favorito per avere candidato democratico. Sì, candidato democratico. Oggi anche Sanders ha detto che sta pensando a ritirarsi dalla corsa e a seguire piuttosto quello che succederà. Insomma, la cosa è complicata. La notizia di oggi di Trump, che ha detto, a parte gli aiuti che dà, è che per farvi capire com'è qui il sistema sanitario, per chi si dovesse ammalare a New York, la speranza è che arrivano due navi della Marina con 1000 posti letto, quindi saremo tutti ospitati in queste navi della Marina americana. Un'altra cosa invece interessante rispetto anche a quello che diceva Isabella dalla Germania, è quello che succede nell'America migliore, in Canada, dove c'è un sistema sanitario che funziona, e vi dico che lì, per esempio, negli stati più tipo la Nuova Scotia, negli stati più settentrionali, più isolati, così non ci sono stati grandi casi, non ci sono grandi casi, eppure hanno chiuso le scuole e hanno inviato una lettera a tutti gli studenti dicendo: guardate, ognuno di voi deve sentirsi come se avesse il virus e deve in qualche modo comportarsi per essere responsabile rispetto agli altri di questa malattia, quindi state a casa. Anche lì si invita molto, ma prima ancora che capitino i casi, alla responsabilità individuale, diciamo tutta un'altra area rispetto agli Stati Uniti, a Trump, che fino a ieri diceva che il caldo avrebbe fatto passare tutto. Certo, come no. Buona fortuna allora Riccardo Barlam, e un abbraccio. A voi e un abbraccio a tutti. Ciao caro Riccardo. E ora chiudiamo Dulcis in Fondo con il nostro Dario Ricci. Caro Dario. Eccoci qua, cara Roberta, ben trovata. Per continuare a parlare, ben trovato a te, man mano dello sport che chiude pezzettino per pezzettino. Oggi abbiamo avuto a tutti i convocati qui a Radio 24 il presidente della Federcalcio Gravina, che ha detto delle cose importanti, al di là che siano condivisibili. Uno che ha detto, si è mostrato piuttosto ottimista, per esempio, sulla ripresa delle partite del calcio in Italia. Ma in realtà non proprio ottimista, semplicemente detto che ci sono degli slot, inevitabilmente ogni buon dirigente in questo periodo cerca di pensare a quello che può essere la ripartenza, e sono gli stessi slot che poi su per giù ha messo in campo l'UEFA appena ieri, no? Appena ci sarà un via libera da parte delle autorità sanitarie, il più ottimistico, ma in cui ben pochi credono, è metà aprile. Un altro che è auspicabile, e penso che lo auspichiamo tutti, non solo per lo sport, potrebbe essere inizio maggio, no? Il poter ritornare in campo in quel weekend 2, 3, 4 maggio per poter giocare almeno a porte chiuse, si parla sempre di partite a porte chiuse, ma per poter ridare il via alla stagione e poi arrivare alla conclusione entro il 30 giugno, come ho spiegato e previsto dall'UEFA, oppure ho fatto capire e ha detto esplicitamente Gravina che, così come con idea condivisa anche dalla Liga Spagnola, si potrebbe sconfinare anche di un paio di settimane a luglio. È chiaro che il calendario, Roberta, lo fa il coronavirus. Già, ormai da lui dipendiamo. Infatti, e quindi i dirigenti cercano. Non a caso la UEFA ha messo in campo questa commissione ieri, che studia anche giorno dopo giorno l'evolversi degli eventi dal punto di vista dei calendari. E poi l'altro concetto che ha esplicitato il taglio degli ingaggi, una cosa straordinaria, forse la prima volta da parecchi anni a questa parte, Dario? Diciamo che comunque è chiaro che in una situazione di emergenza, ma questo pure è un tema che era emerso già ieri nel vertice, negli incontri voluti dall'UEFA, e tutti sono chiamati a fare la propria parte per ridurre queste perdite, no? Quindi molto probabilmente, insomma, nel momento in cui ricomincerà la stagione si aprirà un dibattito sul taglio degli ingaggi, che non è un tabù, ha detto giustamente. Una riduzione con un contributo per ammortizzare queste perdite economiche. Non moriranno di fame, io ho come così l'idea, però magari diciamo che poi bisognerà capire come verrà declinato questo aspetto, perché invece ci sono nelle serie inferiori o anche giocatori di Serie A che hanno degli ingaggi non paragonabili a quello di Ronaldo, per capirci. Quindi però, insomma, è giusto, diciamo, che dovrà essere molto più di tutti noi e ancora più di altri. Grazie caro Dario Ricci, poi vedremo un po' come la prenderanno più in là. Adesso vi devo lasciare, ci stiamo brevemente alle 22.